Benvenuti gentili ascoltatori di Absolute Beginners, questa è una puntata speciale. Intanto siete in compagnia di Babe e di Sasà. Ciao a tutti, ciao Babe. Ma dicevamo puntata speciale, specialissima, perché non è consueto per noi avere ospiti. E tecnologia permettendo, siamo in compagnia di Enrico Tauraso. Dico bene, Enrico, ci sei? Sì, ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Bene, la tecnologia ci permette di avere un contatto a migliaia di chilometri di distanza, perché noi siamo qui a Berlino, mentre Enrico, dove sei? A Torino? Sì, sono, sì, diciamo molto vicino a Torino, diciamo un posto che si chiama Collegno, che è praticamente attaccato a Torino. Sì, che è dove abito attualmente. Ok, Enrico Tauraso, chitarrista dei, ahimè, ormai defunti Dead Elephant. D'altronde il nome non prometteva molto bene, no, sto scherzando. Comunque, all'epoca non eri ancora a Torino, eri a Fossano, e Sì, è vero. vabbè, il contatto fu che una decina d'anni fa sareste dovuti venire a suonare a Bologna in un festival di Robot Radio, che era una delle tue etichette, la tua etichetta Eh dell'epoca. sì, eh Avremmo sì. dovuto no, organizzammo un concerto, ma poi non riuscite a venire. Poi, dopo anni, ok, diciamolo tutto, tramite un noto sistema peer-to-peer per ascoltare musica, diciamo, per scaricare musica, ho contattato per sbaglio, ho incontrato per sbaglio, se così si può dire, Alberto, un quasi tuo conterraneo, che mi ha ricordato di te, e ho detto: aspetta, che provo a ricontattarlo. Perché i tuoi dischi a me piacevano tanto, poi non riuscivo a vederti dal vivo, però ho detto, visto che ci occupiamo di underground, di band che non hanno avuto secondo noi il successo meritato, proviamo a ricontattarli. Sì, perché questo album ci è piaciuto tanto, quindi per noi è un grosso piacere avere per la prima volta un ospite in questa trasmissione, uno strano, e quindi grazie Enrico di dedicare un po' di tempo a noi. Ma che grazie a voi ragazzi, cioè io sono onorato di ricevere questo tipo di attenzioni, più che altro perché appunto sinceramente non ne sono abituato, quindi magari perdonate anche la mia, diciamo così, la mia componente da orso che sicuramente emergerà tramite questa intervista, però veramente voglio ringraziarvi, cioè, di cuore sul serio, al di là della retorica, Ma non ti fa piacere. preoccupare quando dici di orso, perché per fortuna abbiamo anche la tua musica da far ascoltare ai nostri ascoltatori e chi potrà Certo. apprezzare si accorgerà insomma anche di chi sei tramite quello che faremo ascoltare. Like yours, like yours. Intanto per cominciare una domanda, cosa che spingeva un ragazzo negli anni zero a Fossano a fare questo tipo di musica, che non è certo una musica, diciamo, pastorale? No, no, no. Beh, no, sì, cioè in un certo senso credo che comunque sia collegata anche a un tipo di approccio di provincia, ma intesa anche come uno spazio dove comunque c'è molta meno, le mode attecchiscono di meno, credo. Cioè, credo che in quegli anni lì per i Dead Elephant, ma anche per molte altre band che erano presenti sul territorio in quegli anni, ci fosse in qualche modo una spinta, cioè anche creativa, mi viene da dire, cioè, perché comunque. Oltre ai Dead Elephant sono esistite tante altre band anche con una grande personalità, come ad esempio, giusto per fare qualche nome, iniziare a fare qualche nome, i Cani Sciorri, che sono una band italiana che purtroppo non è stata intercettata ancora bene sui radar di molte situazioni, però all'epoca c'era un po' questa necessità anche un po' di avere uno spazio espressivo al di fuori dei canoni classici che potevano essere appunto andare a sentire un gruppo in una birreria, cioè mi viene da un gruppo di cover band. Stiamo parlando della provincia di Cuneo, quindi c'è cioè, un ambiente sicuramente abbastanza ostile rispetto a molti aspetti legati alla cultura, soprattutto questi magari un pochettino meno allineati con quello che di solito si sente. Sto parlando cioè di tutti i vari derivati di quello che era allora, cioè diciamo l'hardcore, il punk, queste cose qui. Esatto, infatti mi hai colpito e secondo me hai centrato, colpito nel segno quando dici che queste zone, forse le mode più in voga, non hanno attecchito troppo, perché se mi rifaccio ai gruppi, cioè i pochi gruppi che dalla mia zona, io sono delle Marche, che non suonavano cover, comunque appunto esattamente come hai detto te, chi faceva musica propria era comunque molto legata a canoni famosi, classici di punk, diciamo. Sì, certo. Sì, era poi all'epoca chiaramente c'era un contesto, secondo me, anche intorno alla musica molto più vivo, in termini anche di proprio, aveva proprio attecchito sui giovani invece, di un certo tipo, non sulla massa, ma c'era una specie di micro comunità, un po' credo un po' in tutti i posti italiani, che poi ad un certo punto hanno iniziato anche un po' a dialogare tra di loro, quindi a organizzare, come ad esempio è successo per noi con Stefano, perché Stefano è Stefano di Robotradio, Sì. intendo, è praticamente originario di Trento, della provincia di Trento. Cioè, quindi in realtà tra Fossano e Trento ci sono un po' di chilometri, però in realtà appunto c'era questa necessità di creare una rete, ma questo credo che ci sia ancora adesso, cioè nel senso che c'è comunque ancora questa rete in qualche modo. All'epoca per noi era semplicemente un modo per cercare una propria dimensione, perché fondamentalmente eravamo dei disadattati, cioè nel senso che comunque abbiamo iniziato a suonare in una band per noia, cioè perché in realtà volevamo riempire di un po' di senso anche cioè, il nostro tempo libero. e sfruttarlo, cioè, per creare qualcosa di costruttivo, ecco. Cioè, o almeno provarci. Cioè, poi diciamo che forse i risultati lasciano un po' a desiderare, perché in realtà nei risultati la positività non credo che sia la prima cosa che ti viene in mente, però in realtà, cioè, credo che fosse più questa necessità di insomma di tirare fuori anche degli aspetti che magari uno non riesce a esprimere diversamente, quindi un'esigenza in qualche modo, mi viene da dire, di libertà, cioè, in fin dei conti, cioè, credo che in fin dei conti sia questo quello che ci ha permesso di metterci insieme in una stanza e provare a tirare fuori delle cose. Però, cioè, insomma, non credo che questa sia la storia molto, sia una storia molto diversa del 90% delle band, cioè, quindi in realtà è semplicemente il seme del rock and roll che cresce un po' in posti magari non sempre, cioè, in cui è facile che cresca, però lo dicevo a Babe tempo fa, quando ci siamo sentiti per la prima volta per telefono, che comunque col senno di poi fa anche una certa impressione vedere come si sono articolate queste varie realtà che ci sono state in provincia di Cuneo, come hanno interagito e hanno anche in qualche modo creato quello che all'epoca io ho sempre negato, però col senno di poi era in qualche modo una scena, mi viene da pensare, cioè, o qualcosa che può essere considerato così. All'epoca, da buon, diciamo, ero molto più, come dire, più critico, cioè, su tante cose, ma a volte anche per partito preso, in un modo forse anche un po' ottuso, credo. Adesso, visto con diciamo, dopo che è passato questo tempo, forse qualcuno aveva ragione quando diceva che c'era una scena. scena per definizione è un gruppo di persone tenute assieme, diciamo, da un interesse comune, e un interesse comune c'era, quantomeno Sì, suonare un esatto. certo tipo di musica. Poi, come voi siete arrivati a suonare questo tipo di musica che molto spesso viene, arriva da oltreoceano, vengono in mente tante band, non so, di New York, di Boston, insomma, o di, legate Certo, a sì. realtà, a Providence, a realtà americane comunque. Anzi, te lo chiedo esplicitamente, come siete arrivati a questo genere di musica? Io, a me, non so, mi vengono in mente gli Harvey Milk, i Boch, che Sì, erano... beh, magari fossimo come i Boch, però no, capisco cosa vuoi dire, ma non credo che, cioè, diciamo che il nostro approccio verso queste robe qui è sempre stato molto viscerale, cioè nel senso che non abbiamo mai pensato, credo, in modo così esplicito di seguire un modello. Ci sono sicuramente delle band che ci hanno, che senza la quale i Dead Elephant non sarebbero esistiti. Cioè, mi vengono in mente cioè, beh, gli Young Sane, i Neurosis, i Melvins, più tutti altri centinaia di dischi, perché poi fondamentalmente tutto questo, il primo contatto che abbiamo avuto con queste musiche è chiaramente da ascoltatore. Perché, anzi, ricordo che nella band che esisteva prima dei Dead Elephant, che si chiamava Elephant Man, c'era praticamente già Flazio, che è il ragazzo che poi ha seduto dietro le pelli per il primo disco dei Dead Elephant. Quindi è stata, diciamo, una formazione che i cui Dead Elephant sono una sorta di evoluzione, ecco, mettiamola così. E già all'epoca ricordo che cioè Dante, il bassista, mi aveva passato Total Destruction degli Young Sane dicendo: beh, ma non sarebbe male fare una band tipo queste cose qui. E io, diciamo che mi ero mostrato piuttosto contrario verso di lui, perché dicevo che era troppo pesante. E invece Quindi, dopo? invece dopo probabilmente ho cambiato idea, perché cioè, diciamo che la pesantezza è stata una delle cose sulla quale, cioè, era proprio chiarissimo che volevamo fare una cosa che non fosse accomodante in qualche modo. Thank you. Io sono curioso perché abbiamo parlato di pesantezza, hai nominato gruppi come i Melvins. Ascoltando invece l'album che stiamo ascoltando, Lowest Shed di Scent, beh, la Sì. seconda parte dell'album a me colpisce ovviamente positivamente, ma Sì. uno perché forse nella prima si sentono di più, diciamo, la parola punk, mentre nella seconda metà è qualcosa di un pochino più curioso e meno comune. E mi Sì, ho sono capito quello chiesto, e che dici. chiedo a te quindi, da dove venivano invece queste atmosfere che si sentono nella seconda parte dell'album? O mi puoi anche chiaramente dire che sbaglio, che non ci ho capito niente, eh? No, no, no, assolutamente. Io credo che cioè, ci sta e capisco perfettamente cosa vuoi dire perché cioè, effettivamente la seconda parte del disco è anche un po' più dilatata, ci sono Sì. anche degli elementi che non sono così facilmente accostabili al punk. Esatto, per Ma questo ero curioso di questo. chiedere a te un pochino se Ma queste cose sono influenzate da altri o in caso da chi. guarda, rispondere a una domanda come questa, sinceramente, soprattutto adesso, a distanza di così tanti anni, cioè, c'è un po' il rischio fake, perché in realtà dovrei risponderti per come ero allora. Cioè, Certo. diciamo che un certo tipo di ascolti più psichedelici hanno sempre fatto parte dei nostri ascolti. Ok. Però ti voglio anche dire che credo che la cosa che abbia fatto anche molto la differenza è credo che sia il fatto che non abbiamo mai pensato di seguire un canovaccio per i nostri pezzi. Non Cioè, si è stato sente. sempre una cosa molto istintiva, legata a un aspetto molto istintivo in cui quando suonavamo e praticamente si creavano magari delle atmosfere che ci sembravano interessanti, cercavamo in qualche modo di percorrerle e vedere un po' che cosa usciva fuori. Quindi credo che questa cosa qua sia fondamentalmente anche frutto di un certo tipo di volontà nell'approcciarsi al suonare, cioè non necessariamente cercare la tua zona di comfort sempre, ma anche cercare anche un po' di metterti in gioco e quindi a volte anche confrontarti con cose che non è detto che lo fai con la stessa semplicità con il quale magari fai un pezzo punk, cioè che è fatto di quattro accordi. Normalmente, cioè, o comunque di riff, di cose che. E quindi, cioè, non che, con questo non voglio dire che siamo una band sperimentale, perché in realtà di sperimentazione nei Dead Elephant c'è molto poco, secondo me. Non c'è, non sarei così, come dire. Cioè, mi sembra etichettarci in questo modo sarebbe eccessivo. Semplicemente abbiamo cercato di sviluppare delle forme di musica heavy diverse. Però questo in realtà nei risultati non mi sembra una cosa che non si è mai sentita. Semplicemente è la nostra variazione sul tema, credo. Dopodiché, cioè, chi ascolta si fa un'idea. Questo è quello che la mia percezione delle cose. Poi chiaramente, cioè, non lo so se ad esempio voi come la percepite questa cosa. Io la percepisco così. Però non so se è una visione univoca, ecco, questo voglio dire. You jump, I come, and I think I take your sweat from the sand. So I'm about to itch, where you're all'epoca che ambizioni avevate? Dove volevate arrivare? Perché comunque c'è parecchia cura nella realizzazione del disco a partire dalla copertina. Non mi ricordo chi fosse il grafico. Comunque è tutto molto curato, Allora, l'edizione. Lowest in realtà la copertina è di Marco Corona, che è un artista bravissimo ancora ora, che ha fatto diverse graphic novel. Anzi, secondo me, Marco in sé, credo che sia un mezzo genio, sinceramente. Cioè, io quando vedo le cose che fa lui ancora adesso, rimango colpito esattamente come mi succedeva 10 anni fa, in cui era in realtà un disadattato come noi. Insomma, diciamo che eravate tutti nell'underground, mettiamola così, per sì, fare quelli sì, sì. eleganti, Come? per fare quelli sofisticati ed eleganti, eravate Ma sì. underground. Quasi più o meno, cioè eleganti, diciamo che sì, non eravamo proprio eleganti, però, però comunque sì, è vero, eravamo sicuramente sottoterra, questo sicuramente. No, però dove volevamo arrivare? Ma guarda, cioè in realtà la cura che ci abbiamo messo credo che non sia dovuta a dove vuoi arrivare, ma a come vuoi fare le cose. Il fatto che non siamo mai stati dei professionisti, questo secondo me non significa che uno una cosa non la debba fare bene. Cioè, anzi, alla fine è importante l'intenzione che ci metti, non necessariamente che obiettivo ti dai nel farlo. Cioè, l'obiettivo in una cosa creativa dovrebbe essere il fatto di fare il massimo che uno riesce a livello creativo. Cioè, credo che al di là del fatto se lo fai per lavoro o lo fai per piacere tuo personale, perché fondamentalmente una cosa così la fai perché ti va di farlo. Cioè, anche se lo fai con velleità, cioè, lavorative, cioè se lo fai in un ambito come questo, è abbastanza da stupidi, perché e noi siamo anche stati stupidi, perché comunque l'abbiamo anche pensato in alcuni momenti, cioè io l'ho pensato. E di questo un po' ci penso in una maniera così, come non so come spiegare, ma mi sembra un atteggiamento molto infantile. All'epoca avevi avuto un'idea che avreste potuto avere un successo, che ne so, internazionale, appunto, come Ma progetto? più che, ma non tanto successo in sé, ma cioè, diciamo che abbiamo avuto la stupidità di pensare che quella cosa lì poteva portarci anche ad essere un lavoro, non tanto in termini di successo, Ok. perché tanto in realtà, come dicevo, in un genere come questo, se pensi di tirarci fuori dei soldi, cioè, credo che ci siano altre cose che puoi fare per tirare fuori dei soldi, non di certo, cioè, suonare una musica come quella. No, no, certo, anche band molto blasonate che noi riteniamo famose, americane o inglesi, in realtà sono durate Esatto, una manciata di anni proprio perché sì. non sono mai riuscite a farne un lavoro. Sì, noi Quindi. diciamo che rispetto a questa cosa qui abbiamo cambiato nel tempo la visione delle cose. Però c'è stata anche la fase in cui abbiamo pensato che sarebbe stato bello, però sono tutti pensieri che poi si sono infranti pesantemente nella nostra incapacità di gestione della band. Perché in realtà, cioè, non, siamo, cioè, io la percezione che ho di quegli anni lì è proprio, cioè, eravamo così infoiati tutti quanti di fare questa cosa che in fin dei conti è come se ci fosse stata una specie di autocombustione. Cioè, siamo bruciati così e credo che, ma alla fine credo che sia giusto così. Cioè, è il percorso che dovevamo fare. Io quello che posso dirvi è che quello che abbiamo cercato di fare è sempre stato fatto in una maniera molto onesta. Cioè, non è che non abbiamo mai avuto necessità che vanno al di là di, in primis, di tirare fuori delle cose che esprimessero qualcosa di importante per noi. E poi il resto era fatto un po' con l'atteggiamento, ok, se qualcuno trova questa cosa interessante, bene, altrimenti Altrimenti, pace. ma Però è chiaro che ci sono anche delle fasi in cui pensi anche, ma se invece questo mese, se il prossimo mese organizzo un tour e praticamente riusciamo a suonare per qualche mese, magari per quel periodo lì posso riuscire a sopravvivere così. Thank you. Prima Enrico la parola onestà e casca a fagiolo con le band che di solito noi trattiamo qui ad Absolute Beginners, ma oggi abbiamo la fortuna di poter parlare con te, quindi con un diretto interessato. Beh, ti E ringrazio. ritorno alla domanda di Babe, perché dopo noi sappiamo che tu hai continuato dopo i Dead Elephant con altri progetti, e ora cosa ti spinge nuovamente a proporre nuova musica? Semplicemente di nuovo voglia, come dicevi prima, o come è cambiata la tua percezione delle cose? Ma rispetto a questo non è assolutamente cambiato, cioè nel Ecco. senso che non. Fondamentalmente, in questa cosa qui sono una specie di romantico, credo. Cioè, nel senso che ho una visione comunque della musica molto legata ad aspetti molto terreni, non tanto, cioè non mi interessa molto dove arrivare da qualche parte, ma più tentare di tirare fuori qualcosa che io reputo di valore. Questo è stata ed è ancora la cosa più importante e davanti alla quale comunque spendo anche molte energie insieme alle persone con cui suono. Questo è ancora così, cioè nel senso Ma le che persone con cui suoni rimangono come una decina di anni fa, persone della zona, o dopo con i contatti che tramite la tua musica ti sei creato, hai trovato persone che vengono da altre zone d'Italia o da fuori addirittura? beh, sì, cioè, diciamo che allora la storia dei Turin Horse è questa qui, che i Turin Horse sono la mia nuova band. Ok. Praticamente nasciamo in realtà dall'incontro tra me e Alain Lapaglia. Che per chi non lo sa è stato anche il batterista dei Morcobot, un'altra band italiana di quegli anni, ma in realtà hanno proseguito fino a poco tempo fa il loro percorso musicale. Alain è uscito da quella formazione lì un po' di anni fa, credo 5 anni fa, cioè già un po' di anni fa. E io e lui ci siamo sentiti, eravamo tutti e due in super depressione per motivi diversi, nel senso che io ero appena uscito da una storia, cioè diciamo di 9 anni, con la mia compagna, quindi ero, cioè, abbastanza in una fase cioè, in cui stavo cercando un po' di ritrovare un po' il bandolo della matassa. Dopo 9 anni ti senti comunque, insomma, ritrovare un equilibrio non è una cosa semplice. E allora sono praticamente entrato in contatto con Alain, che mi diceva che dall'altra parte, come si suol dire, stava mettendo le cozze su un altro scoglio, diciamo, se vogliamo così dire, nel senso che era comunque fermo. Non stava, insomma, era piuttosto insoddisfatto, e allora abbiamo deciso di mettere insieme le forze. Ci siamo visti, sono andato io una volta, un paio di volte a Lodi dove stava lui. Ok, Lodi quindi. Sì, ci conoscevamo già da prima, e siamo andati a farci qualche suonata insieme. E poi a una certa è uscita fuori la possibilità, comunque da parte sua, di trasferirsi a casa mia, che nel frattempo si era trasferito, mi sono trasferito, diciamo, in provincia di Torino. Avevo una casa dove comunque c'era una stanza in più che poteva essere utilizzata. E così sono nati Turin Horse, cioè nel senso che siamo incontrati, abbiamo, diciamo, avevamo proprio un po' voglia di riscattarci musicalmente, ma non solo, anche proprio come persone, perché eravamo in una fase comunque molto in cui avevamo bisogno di questo, anche di una valvola di sfogo, di tornare a riprendere contatto anche con quella dimensione più emotiva legata alla sala prove, che ti permette di tirare fuori delle cose nel modo giusto, cioè mettendoti in gioco. E questo, diciamo, che è stato una grande rinascita per tutti e due, credo, perché ha un po' ci ha anche permesso un po' di buttarci alle spalle le nostre esperienze passate, che comunque avevano anche un certo peso anche nel nostro modo di essere in quel momento, perché anche i Dead Elephant si erano sciolti e io ero rimasto anche un po' orfano di questa situazione, anzi forse anche un po' ostaggio, perché in realtà per molto tempo avevo pensato anche di riformarli, ma poi in fin dei conti ho deciso insieme ad Alain di formare una nuova entità, perché ci sembrava la cosa anche meno accomodante per noi, cioè nel senso che alla fine i Dead Elephant erano morti, non esistevano più, quindi sarebbe stato un fake in qualche modo, o comunque rimettersi una maschera che non era la nostra. E quindi in realtà abbiamo detto: no, vaffanculo, proviamo a rilanciare, cioè ad alzare il tiro, non a fare quello che abbiamo già fatto semplicemente in un modo diverso, cioè proviamo a metterci in gioco e vedere che cazzo esce fuori. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Ma per concludere, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, nuovo materiale e quando uscirà? Beh, nuovo materiale, allora, sicuramente spero presto, anche se fare dei programmi con questa situazione legata al Covid è abbastanza un delirio, quindi purtroppo non sono in grado di dare delle date. Quello che vi posso dire è che abbiamo un disco finito, Ecco. già mixato e Beh, complimenti che, intanto. insomma. Beh, grazie. Beh, ma aspetta a farmi i complimenti, magari Va poi bene. l'ascolti e ti fa cagare, insomma. Se le premesse sono quelle che abbiamo ascoltato oggi, dubito, però va bene, ti farò No, no, sapere. vabbè, sì. No, ma io appunto, questa è la verità nuda, nel senso che è Certo, quello che c'è certo. dietro queste robe. Poi chiaramente il risultato non vuol dire che, cioè, questo è come me la sono vissuta io. Poi la gente ascoltando chiaramente si farà la sua idea. Io vi posso dire che anche in nome dei Turi Norse, cioè nel senso che anche Alena la vede così, in realtà siamo molto contenti perché è stato, cioè, comunque una specie di fatica incredibile da riuscire a terminare questa cosa, perché poi tutto questo è stato ostacolato anche dal lockdown, dai nostri problemi personali, cioè da un sacco di cose, e quindi in realtà arrivare al termine, avere in mano il frutto di tutto questo processo ci fa anche effetto, però sinceramente siamo contenti. Poi non sarà di certo un disco, cioè un disco per l'estate, diciamo, Ok, non mettiamola sarà Laura così. Pausini. No, esatto, cioè, nel senso che secondo me, diciamo che, cioè, più invecchio più peggioro, secondo me. Meglio, Questo meglio. Comunque, con questa, lo ma decideremo noi. soprattutto con questa ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo, Enrico, per aver ricordato i Dead Elephant e averli commentati assieme a noi. Certo, grazie a voi, anzi mi sembra un ottimo modo di finire questa Ok. intervista dicendo che più vado avanti più peggioro, Esatto. e direi che è perfetto, cioè possiamo chiudere qua. Va Va bene, benissimo. allora grazie e speriamo di vederti dal vivo. Non so. Eh Sì. già, accidenti, Ti lo spero aspettiamo a anch'io. Berlino. Dai, dai, volentieri, certo. Va Grazie bene. mille, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto. Ciao Sasà e alla Ciao prossima puntata. Babe, ciao a tutti, Ciao, ciao. ciao a tutti, Ciao, ciao. ciao, grazie.